Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Ci siamo, qua. 8, 16 prime, 48 secondi in diretta fino alle 9.30 in questo 19 di luglio. Esatto, 19 già siamo. Si avvicinano le vacanze allora. No. Come no? Il 20, quando? 29. Ma quando mai? Cosa pensi di andare in vacanza? No, non basterebbero 7 anni per pagare le tasse che devi avere quest'anno al fisco. Su. Ah, ecco, guarda, vedi che l'agenzia delle entrate, tra l'altro, è su Facebook, è da oggi. Eh sì, perché erano invidiosi di Pokémon, capisci? Il grande successo di Pokémon, ha detto, perché una cosa che non esiste e anche noi allora la facciamo, no? No, tra l'altro, mentre c'è questa notizia, l'agenzia delle entrate della pagina su Facebook, io non invidio i moderatori di quella pagina, sai, i moderatori, quelli che devono controllare che non ma li siano. Avranno messi automatici, insulti, non credo, cioè. Nessuno avrebbe la freddezza di nervi necessari a reggere a quello che, no, avranno dei filtri molto potenti, sì, esatto. Vedrai che il 99% delle opinioni non corrette, delle espressioni troppo violente verrà automaticamente filtrato. Però è uscita questa notizia sulla 'ndrangheta e politici e funzionari dell'Agenzia delle Entrate in contatto con alcuni dei soggetti coinvolti nelle indagini di polizia. C'è un'operazione in corso di cui i dettagli non si sa ancora. Ma dov'è la notizia? La notizia è sulle agenzie. Sì, no, la notizia in sé. Sì, ho capito, ma dov'è la notizia? La notizia è in Calabria, ma... Ah, ho capito, tu intendi storia di ordinaria amministrazione. Oggi sui giornali, scusate, ti sottolineo, c'è la storia di questo Mazzocchi che fa parte dell'indagine del Pizza, no? Funzionario. Del Pizza. Viene descritto funzionario di Palazzo Chigi che al di là, così voglio dire, del vecchio, vecchissimo, oramai dimenticato quasi Pecoraro Scanio come ministro alla cui segreteria è cresciuto. Per il resto sembra che Palazzo Chigi sia, nella descrizione dei giornali, una luna di Giove. Cioè, nel senso che questo uomo, che è stato sorpreso con cartoni pieni di soldi per aggiustare processi, sta in un posto definito dai giovani Palazzo Chigi, ma nel quale sembra villada, un parco, nel senso che i giornali stanno attentissimi, non ci dicono cosa cavolo faceva a Palazzo Chigi questo signore. Funzionario. Funzionario. Cioè, stava in un sottoscala, non si occupava di nulla che abbia a che fare con il governo di oggi. Dai, su. Ma guarda, a volte i giornali sono capaci di delle delicatezze diplomatiche che su altri argomenti invece non c'è. Mancano. Oh, purtroppo, Oscar, dobbiamo aggiornare e dobbiamo informare i nostri ascoltatori, perché la notizia è di pochi minuti fa, che a Nizza adesso è ufficiale, ci sono 5 morti italiani. Nel senso che le autorità francesi hanno detto, oggi si racconta sui giornali di una persona identificata, invece le agenzie ora parlano di 5 persone identificate. Sono state identificate quindi Carla Gaveglio, Maria Grazia Ascoli, Gianna Muset e Angelo D'Agostino, sono stati identificati, oltre a Mario Casati, che era già sui giornali, come vittime accertate a questo punto. Esattamente, c'è anche un italo-americano, Nicolas, che è disperso, ma a questo punto bisogna iniziare a immaginare che appunto i dispersi, come capita per questa identificazione di vittime dei 5 italiani, siano purtroppo delle vittime. Sì. Ti dico brevemente che oggi tra tutti i santi scelgo San Cragon, che è un martire egiziano studio-diocleziano, e San Dio, che uno dice, no, ma com'è, un'imprecazione? Invece no, San Dio esiste. È stato un archimandrita, quindi alla testa di una comunità di monaci a Costantinopoli, e quindi potete chiamare anche i vostri figli Dio senza pensare che sia invece una cosa inappropriata, perché c'è San Dio. Tra i nati oggi, Emmanuel Colt, che come si vede ha molti seguaci negli Stati Uniti, quello della pistola, e Veronica Lario. E Veronica Lario, auguri a Veronica Lario, che oggi fa un'età tonda, di cui non svelo, non però si può svelare assolutamente, però oggi è il compleanno di Veronica Lario. Veronica Lario, va bene, la voglio citare perché oggi ci sono molti articoli intollerabilmente sessisti sui giornali italiani sulla moglie di Trump alla convention, e considero che i miei colleghi e le mie colleghe, che per dimostrare il fatto che hanno un giudizio di Trump che è legittimissimo, molto critico, ecco, attaccano la moglie in quanto ex modella di intimo, forse dimenticano che così facendo non fanno altro che replicare uno stereotipo intollerabilmente sessista. Mi dispiace, fior di autorevoli colleghe italiane in questa cosa che ci cascano, bah, vedi, alla fine poi sono tutti malati di politica, anche i giornalisti. Sì. No, poi le critiche a Trump politiche sono assolutamente legittime, contano effettivamente, però questo attaccare la moglie perché per il suo passato da modella di intimo hai capito, e quindi, se dovessimo, come se la modella di intimo e allora hai capito, se... cos'è, non è una maniera onesta per procacciarsi il denaro, no, infatti. Perché bisogna essere che cosa? Jacqueline di Kennedy era meglio, ma dai, cioè, che ragionamento è? Cioè, ripeto, quando vedo oltretutto delle giornaliste farlo, ma mi dico che probabilmente sono figlio di un'altra epoca io. No, perché non sopporto l'idea che si applichino queste critiche, cioè il sessismo eccetera, a senso unico, quando sono quelli tra virgolette cosiddetti di destra. Se la sinistra invece a usarle, allora si sdogana tutto. O sono giusti questi atteggiamenti o sono sbagliati in sé, a me pare questo, tutto qua. Comunque Giannino, oggi è il compleanno mio, dice Achille, si scrive così. Caro Oscar, caro Giannino, è il mio compleanno. Achille 1958, vedi, lui non ha paura di... Beh, ti credo, da quando gli è morto Patroclo, festeggio da solo. Comunque, auguri Achille! Cari ascoltatori, 800 24 00 24 è il numero per intervenire. Oggi parleremo di migranti, sicuramente. Parleremo anche di turismo, pensa, dalle 9 alle 9 e mezzo. Il numero chiuso per il turismo, alcuni vorrebbero nelle città, nelle isole, eccetera. Però, caro Oscar, io ho visto queste immagini come tutti della Turchia e magari sì, vi stimoliamo a chiamare su questo. Io ho fatto questa provocazione. Se la Turchia, se questa Turchia entra in Europa, quella che Erdogan dice... il golpe è stato un dono di Allah per fare una nuova Turchia. Se è questa la Turchia che entra in Europa, no, io suggerirei di uscire tutti noi dall'Europa. Così la lasciamo in una stanza da sola. Il golpe è l'equivalente dell'incendio del Reichstag del 1933, quello che consentì di arrivare al governo per decreto con poteri assoluti a Hitler. Questa è la mia idea brutale, lo dico come la penso. Non difendo i golpisti, che hanno fatto una figura abbastanza ridicola. Quello che è evidente è che i 16.000 arrestati, vedrai quante diventeranno, cioè la decapitazione dello Stato, dei giudici indipendenti, dipendenti e così via, era pronta da anni. Cioè, come evidente, queste liste vengono curate, vengono aggiornate da anni, quindi è evidente che una cosa così è intollerabile. Cioè, non può esistere un regime, i regimi sono di diverso tipo, per carità, ma non può esistere un regime che carcera e destituisce migliaia di persone senza diritto di difesa, tantomeno in Europa. Questa è la mia opinione, poi... posso capire che qualcuno invece inneggi Erdogan, inneggi ma Putin. No, no, scopriamo che la Russia di Putin è 6 anni che altera centinaia e centinaia di provette al doping. Viva Putin, per carità di Dio, molti la pensano così. No, io dico che veramente se questa è la Turchia con le repressioni, con la pena di morte, ma c'è una cosa più retrograda di reistituire la pena di morte? Uno che ha fatto magari dei passi in avanti, dice l'abbiamo abolita, adesso reintroduciamo la pena capitale e vorremmo questa Turchia in Europa. Ma e infatti oggi il ministro degli esteri Gentiloni dice che la porta dell'Europa è aperta alla Turchia, ma dipenderà dalle loro decisioni. No, mi piace questo atteggiamento, io lo considero ma sbagliato. L'Europa che balbetta chiuderla... e che non dà giudizi adeguati alla durezza di quello che stiamo vedendo. No, gli dà, no, gli dice, no, dice la porta è aperta. Ma cosa la porta è aperta? Gentiloni, per favore, la porta è chiusa con questi atteggiamenti. Cioè tentiamo di dare ai turchi che credono ancora in un'idea di democrazia e libertà una sponda, altrimenti l'Europa perde l'ennesima occasione per esistere affidata a dei valori. Se lasciamo la porta aperta, vabbè, lasciamo la porta aperta a tutto. Hanno sgozzato uno in fondo sul ponte del Bosforo, che cosa vuoi che abbiano fatto? Hanno sparato ieri al vice sindaco di Istanbul e l'hanno ucciso. E vabbè, lasciamogli la porta aperta. Ma dai, secondo me, lo dico con rispetto al ministro degli esteri, bisogna usare parole un po' più ferme. Un po', ecco, diciamo un po'. Un po' più ferme. Vabbè, diciamo che queste immagini sono effettivamente terribili. Vogliamo sentirlo, Gentiloni? Gentiloni che parla appunto anche della pena capitale, del fatto che viene reintrodotta, che è sbagliato. Insomma, la condanna c'è verso queste cose. Però effettivamente dice la porta, almeno il Corriere della Sera, rimane aperta, dipende da loro. Senti qua, Gentiloni. Si dice anche che non c'è stato lo sbarco sulla Luna. A me queste cose sui golpe fasulli, noi stiamo parlando... di qualcosa che ha provocato la morte di centinaia di persone. Quello che è certo è che noi non possiamo accettare che a questa avventura ci sia una risposta totalmente fuori misura o che addirittura si introducano decisioni come il ripristino della pena di morte. Che questa è insomma la reazione. Ce la vorresti più dura? No, noi non possiamo accettarlo. Uno che schiaffa in galera e destituisce in 48 ore 20.000 quasi dipendenti pubblici, tra militari, poliziotti, giudici, personale diplomatico e così via, e che impedisce ai dipendenti pubblici di varcare i confini, siccome l'ha già fatto. Cosa vuol dire in concreto noi non possiamo? Cioè, quindi, siccome è già avvenuto, la mia domanda è: le espressioni di Gentiloni in cosa si traducono? In niente. Questo è quello che temo io. Tra l'altro c'è l'altro fronte aperto, che è appunto quello di Nizza. Ora si parla addirittura, caro Oscar, di una complicità di un tunisino che stava in Italia, a Gravina di Puglia. Tra l'altro c'è una polemica, perché Alfano ha rivelato questa cosa quando il procuratore Roberti ha detto, il procuratore antiterrorismo, dice: noi non eravamo ancora informati, forse la prossima volta, prima di informare l'opinione pubblica, è bene che Alfano lo dica agli inquirenti. Insomma, al di là della presunta gaffe del ministro dell'interno, però intendiamoci, mi pare che Roberti abbia anche lì istituzionalmente più che ragione. No, ma è chiaro, cioè, ha comunicato, scrive il Corriere della Sera, Alfano, dicendo: abbiamo trovato che ci sono delle complicità, eccetera. In quel momento stavano ancora per perquisire l'edificio dove questa persona probabilmente ha abitato, a Gravina di Puglia. Quindi insomma è stato un po' imprudente, se non altro la tempistica. No, diciamo un atteggiamento non all'altezza di un ministro dell'interno. È che tu sei imprudente, fai gentiloniano. Sono gentiloniano. Non lo so, se un ministro dell'interno dice su vicende di terrorismo internazionale islamista, prima ai giornali e poi agli inquirenti, forse. Diciamo che però la notizia, secondo me, è veramente del giorno, questa di pochi minuti fa. Purtroppo dobbiamo aggiornare, ci sono 5 le vittime italiane accertate a Nizza, dunque sono 5, non sono quelli che erano considerati dispersi, sono ormai ufficialmente dichiarati dispersi morti. Alla vita, sì, esatto. Ci chiama Antonio da Roma, buongiorno Antonio. Buongiorno. Lei è dell'Agenzia delle Entrate, sta su Facebook? No, assolutamente no. Allora, io mi aggancio a una cosa carina che fa Giannino tutte le mattine, cioè che legge i santi. Sì. Perché questa cosa la collego con gli ultimi fatti tragici. Cioè, secondo me si stanno verificando le stesse condizioni di fine impero romano a Roma, quando si stava affermando quella nuova religione che sembrava una religione di matti. Cioè i cristiani, perché non rispettavano le leggi, non si sottoponevano alle leggi di Roma, avevano dei culti strani che non venivano capiti, e all'inizio li hanno presi a barzelletta, poi invece hanno cominciato a discriminarli, e loro col martirio poi piano piano sono riusciti in qualche modo a diventare religione di Stato, a cambiare la cultura e a distruggere quella che era la cultura dominante del periodo. Io temo che più o meno poi, come diceva Nico, la storia è fatta di corsi e ricorsi, e temo che stiamo ritornando in quella fase lì, perché dal loro punto di vista loro cominciano ad avere dei martiri. Dicendo che diventerà un'Europa musulmana lentamente? Noi probabilmente non la vedremo, però guardando gli Stati Uniti, quello che sta accadendo, a me mi ha colpito molto un'intervista, un video postato, e l'ho visto ai telegiornali, di un ragazzo di colore che diceva agli americani: così come voi vi siete ribellati all'oppressore, celebrate il giorno dell'indipendenza, e quello per voi è una cosa giusta, adesso tocca a noi ribellarci, e quindi anche per noi è giusto. Insomma, lei vede un rischio di questo, di una lenta e progressiva islamizzazione, perché hanno i loro martiri, io vedo da un po' di tempo una fase di decadenza storica dell'Occidente che somiglia molto, in questa parte del discorso mi riconosco, tanto è vero che, ripeto, l'Europa non è più la libertà, un'idea chiara, democrazia, noi tolleriamo di tutto. Quindi di fronte a questa decadenza progressiva dell'Occidente, lei dice invece la fermezza ieri l'autore di Sottomissione, il romanzo che ho fatto molto discutere, dice: Erdogan è tale quale al presidente che io descrivo nel mio romanzo. Quindi Federico ci chiama invece da Milano, grazie ovviamente all'ascoltatore di Roma, Antonio. Federico, eccoci. Sì, buongiorno, volevo soltanto rispondere brevemente alla domanda di Milan prima sulla questione Erdogan e Turchia. Certo che noi accettiamo Erdogan, il signor Erdogan e la Turchia, ma lo accettiamo molto semplicemente per una questione pragmatica, perché il signor Erdogan ha costruito delle specie di campi di, tra virgolette, passatemi il termine un po' forte, ma per capirci, concentramento, nei quali accoglie tutti i profughi che arrivano dal Medio Oriente e ce li filtra, e noi in cambio dall'altra parte ci giriamo, dall'altra parte ipocritamente, tollerando tutto quello che lui fa, quindi diciamo così a livello dittatoriale, per cui togliere la libertà di stampa, togliere i diritti dei cittadini. Questo è un po' vero. Credo che Federico aggiunga un tassello fondato. Sui migranti ha un ruolo chiave la Turchia, per 3 miliardi dati dalla Merkel, sulla Siria hanno le basi aeree lì, e come si è visto, e sono stati equivoci al punto tale da far capire all'Europa: o ci considerate un pilastro o è peggio per voi. Perché in realtà, ricordiamolo, per esempio, la giornalista turca uccisa, perché fu la prima a parlare dei traffici alimentati da Erdogan per far passare le armi a ISIS oltre il confine. È chiaro, però è un ruolo chiave, quindi non è che possiamo dire ok, Turchia, ti cancelliamo dalla nostra agenda politica. Questo non significa tollerare quello che succede. Guarda, è un'illusione. Aver lasciato la parte laica della Turchia, quella che poi ha governato per decenni, la parte che ha costruito le imprese internazionalizzate, che hanno fatto e fanno la sua forza e così via, priva di interlocutori in Europa, ha portato a questo. Ha incarnato dal 2003 in avanti il signor Erdogan di fronte ai turchi, che sono molto nazionalisti per la loro storia, dice: ah, questo è ciò che l'Europa ci riserva, adesso li facciamo vedere. E ha incarnato il mito nazionalista ottomano che torna, questo è il punto della sua forza popolare. Ci chiama anche Daniele, sempre da Milano. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Ma io stavo riflettendo sulla questione turca, che altro, ma se fossimo di fronte a un vero golpe adesso, cioè che il golpe sia quello che stiamo assistendo adesso, visto che sono stati, come dicevate prima, quasi deportati più di 20.000 persone tra destituiti e incarcerate, sì. Esatto, se fosse veramente questo il golpe, quello che abbiamo assistito prima invece quello ha usato le armi ed era un golpe. Questo è un golpe bianco, ma di dimensione di massa, però. No, aspetta, guarda, anche secondo le leggi turche attuali la destituzione di massa ai dipendenti su queste basi è illegale, per essere chiari, cioè. E quindi... ma se questo è un golpe, cosa vuol dire, Daniele? Finisce così, cioè la considerazione è questa? La considerazione finisce qua, nel senso che comunque la questione, direi, del fatto che la Turchia possa stare in Europa, su che basi? Cioè, no, se ma è chiaro, su queste basi io sono il primo ad aver detto come provocazione. Esatto, se dovesse entrare in Europa questa Turchia, dovremmo uscirne tutti, in modo da come quando uno entra in una sala pensando di partecipare a una festa e tutti abbandonano la festa, così fatti la festa da solo. La questione è proprio questa qua, cioè se c'è un golpe, che secondo me è questo il vero golpe, la Turchia non avrebbe più modo di rimanere in Europa su quali basi? Di entrare, entrare più che altro. Non c'è modo. Ma insomma, mi sembra, Daniele, che le reazioni del mondo di fronte a questa, sia le reazioni dell'America, dei paesi occidentali, adesso al di là delle parole, come dire, secondo Oscar, un po' titubanti di Gentiloni, la reazione del mondo sia proprio di questo tenore, cioè dire: Erdogan così non va bene, e quindi fermati. Però attenzione, così le reazioni prevalgono sul fatto che, diciamo, se metti la pena di morte, cioè sul fatto che sta decapitando la struttura dello Stato a sé non fedele, in buona sostanza nessuno osa dire nulla. In ogni caso, noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto la pubblicità. Poi parliamo anche di piano migranti. Sai che c'è questo piano migranti, caro Oscar? La finalità del piano sarebbe quella di redistribuire in maniera più... con un criterio, un algoritmo. Per così dire. Sì, con un algoritmo i migranti, e cioè i comuni che aderiranno, tra l'altro, al piano di accogliere i migranti, otterranno 50 centesimi per ogni migrante ospite. 50 centesimi che verranno decurtati dai 2,50 euro che vengono dati al migrante. Quindi al migrante andranno 2, al comune 50. Poi a me colpisce questa cosa. Il comune che accetterà i migranti potrà assumere. Non si sbloccano le possibilità di assumere. Che, per carità, può essere una cosa vista giusta, può essere una sorta di... non dico di ricatto, di modo di lucrare sui migranti, cioè io accolgo tutto i migranti e quindi posso assumere. Non lo so, a me fa abbastanza orrore questa roba, poi la spieghiamo. Ne parliamo tra poco. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Eccoci qua, caro Oscar, le 8:40 minuti. Allora, 800 24 00 24, c'è questo piano migranti. C'è questo piano migranti, diciamo la verità. Tu in realtà stavi parlando della cessione del Milan alla Cina, però sì, adesso tu parliamo. Detto, tu mi hai detto che durante la pubblicità dovremmo fare un fuori onda ogni tanto. E no, perché noi parliamo di notizie. Parliamo di notizie. Oscar mi ha appena comunicato che il cofondatore di Baidu, Robin Lee, ha detto, ha smentito la TV di Stato cinese. Esatto. È la prima cosa al mondo. La prima volta al mondo che la TV di Stato cinese viene smentita da un colosso cinese. E la notizia quindi non è la smentita di aver chiuso l'accordo per 457 milioni di dollari, perché la notizia della TV di Stato cinese dava anche la cifra, bensì che colosso Internet ha detto: no, adesso, cari amici del partito, io vi rispetto, voi comandate, però no, il Milan no. Il Milan, vabbè, quindi non so, ti vedo trascolorare a questa notizia, però non so cosa dirti. Allora, il piano e il progetto di Alfano è questo: redistribuire meglio il carico di migranti. So che è brutto utilizzare insomma questa parola, carico. Però ogni comune dovrà accogliere tra i 2 e 3 profughi ogni 1000 abitanti. 2 o 3 ogni 1000, questo è il rapporto. I comuni che aderiranno a questo accoglieranno, incasseranno 50 centesimi per ogni migrante ospitato, che verranno detratti dai 2,50 euro dati al migrante. E poi i comuni che aderiranno avranno lo sblocco per poter assumere personale. Questo in estrema sintesi quello che prevede Alfano. Perché sì. Non ti piace, Oscar? Non mi piace perché da troppi anni, dai tempi della la legge Martelli, quindi siamo all'inizio degli anni 90, dall'inizio degli anni 90 a oggi sono passati più di 25 anni. In 25 anni, dall'emergenza del paese che scopriva di avere il Mediterraneo come nelle passerelle sul lago d'Iseo di Cristo, che viene attraversato dai migranti, dopo 25 anni ancora, adesso abbiamo una struttura in cui ci occupiamo solo di magnificare, bravi loro, coloro che fanno emergenza. Prima fascia nel Mediterraneo a salvare le vite, seconda fascia nei centri di accoglienza. Per il resto, poi lo Stato dice ai comuni: quando li smisto a voi, cavoli vostri. Allora, quello che manca, certo, è esattamente tutta la parte di retroterra con un modello preciso, che non può essere io fisso il numero, ve la vedete voi, perché questo è la mancanza di un qualunque modello. Perché lì è la prima decisiva partita per l'integrazione. E uso un termine abbastanza antipatico, ma per essere preciso, anche sul controllo di legalità, eccetera eccetera. Invece lo Stato cosa fa? Dice: ti faccio assumere, cazzi tuoi, però scusami la brutalità. Ecco, questa è, dopo 25 anni, secondo me abbastanza intollerabile. Solidarietà ai sindaci. E infatti si parla sempre poi di emergenza. Dopo 25 anni non è l'emergenza, è una politica incapace di disegnare una struttura che funzioni. Non si può dire ai sindaci: assumete, però prendeteli, cavoli vostri, fate quello che volete. Peraltro noi abbiamo un ricercatore della Fondazione Leone Moressa, che ogni anno controlla con attenzione dai numeri precisi. È diventata la fonte più credibile, anche per l'equilibrio economico del dare e dell'avere, su cui ci sono molte semplificazioni. Enrico Di Pasquale, buongiorno e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie per l'invito e grazie per i complimenti. C'è anche un sindaco, è da poco sindaco a Savona, di centrodestra, tra Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Area Popolare, che la sostengono, Ilaria Caprioglio. Buongiorno sindaco, grazie perché di essere qui, perché a Savona si parla di un hub, si utilizza questo, un centro di smistamento, è così? Esattamente, centro di prima accoglienza per i migranti e richiedenti asilo. Buongiorno a buongiorno. Voi, buona giornata. Allora, qualche numero, Enrico Di Pasquale, per inquadrare il fenomeno, ce lo può dare sulla questione di che cosa stiamo parlando quando parliamo di immigrati, di migranti in Italia? Certo, allora intanto va distinto, noi parliamo sempre di emergenza immigrazione, ma sappiamo che gli immigrati in Italia sono 5 milioni e voi accennavate anche al beneficio economico che portano. Quelli di cui stiamo parlando in questo momento sono cosiddetti migranti o profughi, e stiamo parlando di 133.000 persone in Italia in questo momento, quindi questa è la prima distinzione da fare. Il problema è che queste 133.000 persone sono in gran parte accolte in strutture che non sono adeguate all'accoglienza. Il sistema SPRAR, che è quello più strutturato e gestito dal Ministero dell'Interno e dall'ANCI, accoglie attualmente circa 20.000 persone. Sì. Le restanti 110.000 sono nei CARA, quindi i grossi centri per 14.000, comunque quindi una piccola parte, e 100.000 persone, quindi la stragrande maggioranza, in centri cosiddetti temporanei o straordinari, che sono i famosi alberghi, caserme o sì, palestre individuati dalle prefetture. Cioè sono nei vari comuni. Vari comuni, ma il problema è che non vengono gestiti in prima persona, diciamo, dal comune, ma dalla prefettura che in qualche modo lo impone al comune. Qui a dire di chi è la colpa, cioè se la colpa è del comune che non ha fatto prima non ha partecipato prima al bando SPRAR o dello Stato centrale, quindi della prefettura che impone l'accoglienza, questo è difficile da dire. Sicuramente è un sistema che ha una falla in questo non organizzato, è un sistema disorganizzato, costruito su questo concorso di colpe per giustificare 25 anni di assenza di un modello dopo i frontman che stanno in mare e dopo l'identificazione. Non c'è un modello in Italia. Sì, diciamo che il modello si basa proprio sull'emergenza, sulla perenne emergenza. Sì, giustamente 25 anni di immigrazione, questa emergenza attuale dura comunque da 3 anni, da quando gli sbarchi hanno iniziato a diventare massicci, diciamo dai 170.000 del 2014 ai 150.000 del 2015, e probabilmente nel 2016 torneremo sopra i 150.000, sì, perché ricordiamo che l'anno scorso, da luglio in poi, da agosto in poi praticamente, gli sbarchi sono diminuiti drasticamente grazie al passaggio verso i Balcani e verso l'Ungheria e la Germania. Ma ora, sono ricominciati. Ma questa idea di distribuzione di Pasquale come la vede? Cioè i comuni prendono un rapporto di 3 ogni 1000 abitanti, 50 centesimi per ogni migrante, potranno così assumere le pari? Ma diciamo che il piano ovviamente tende a favorire quella che viene chiamata da anni accoglienza diffusa, ma che nella pratica non è ancora mai avvenuta, per cui io non so se questo incentivo può essere sufficiente a favorire un maggiore impegno dei comuni, impegno che comunque è necessario, perché se guardiamo, sì, ripeto, il programma SPRAR ha attualmente 430 progetti su 8.000 comuni, capiamo che è una quantità irrisoria, insomma, sì, e anche sicuramente non è... Anche non è sufficiente. Sì, tra l'altro vorrei andare un attimo un'ultima cosa. Tra l'altro, aumentando gli sbarchi aumentano le persone nel sistema di accoglienza, ma il sistema SPRAR e il sistema CAR rimangono invariati, quindi ad aumentare sono quelli a carico delle prefetture, quindi di questo sistema temporaneo, e che si ritrovano poi nei vari comuni, come a Savona, sindaco Caprioglio, Ilaria Caprioglio teme questo? Ci faccia capire che la sua opposizione non è politica solo, ma un'opposizione pratica. Ma la mia posizione è sicuramente pratica, etica, cioè abbiamo parlato, sento parlare di accoglienza diffusa, e sì, ma in questo modo secondo me non si parla assolutamente di accoglienza, qua si parla continuamente di gestire un'emergenza da 25 anni, 3 anni acuita da questi sbarchi massicci, ma soprattutto acuita da una crisi economica dalla quale non ci stiamo risollevando, dalla quale i comuni non si risollevano. Quindi che cosa succede? Succede che poi a questo punto c'è una contrapposizione tra i cittadini che vivono nel disagio, che vivono grandi criticità, come nel caso di Savona, Savona zona dove tantissime industrie stanno chiudendo, dove moltissime famiglie hanno perso lavoro, hanno perso la casa e vengono a bussare i nostri sportelli per ottenere aiuto, e dall'altra parte quindi ci ritroviamo a non avere una situazione dove poter accogliere, dove poter garantire inclusione, e nello stesso tempo abbiamo, nel rispetto comunque dei ruoli e delle figure istituzionali, però abbiamo una prefettura che diciamo così ci impone una situazione già preconfezionata da un governo che secondo me sta gestendo l'emergenza appunto male, perché sta scaricando veramente su noi, sugli enti locali che sono in difficoltà, in affanno per ben altre motivazioni, anche questa problematica qua. Sì. E in che potrebbe modo? Potrebbe assumere così, però, visto che c'è questo aspetto. Ma allora il discorso è uno. E in questi hub, che sono centri di prima accoglienza dove i migranti in attesa appunto di sono richiedenti di asilo politico attendono dalle 24 alle 48 ore, per cui non si può neanche radicare un sistema reale di inclusione come stiamo facendo con altri migranti. A Savona ne abbiamo circa 184 già collocati in varie strutture, possono essere case, possono essere piccoli appartamenti, comunità, e con questi stiamo cercando già realmente di fare inclusione attraverso progetti che al mattino prevedano un'integrazione sul piano culturale e linguistico, al pomeriggio piccoli lavoretti che fanno per il comune, tutelati, vigilati, e questo è realmente inclusione. Ma una hub non può, non si può pensare che sia inclusione 24-48 ore con questi migranti che possono entrare e uscire liberamente. Sì, ma io dico una cosa, Oscar, guarda, molti messaggi ci arrivano proprio su questa cosa, lo scambio, accogli i migranti e ti sblocchiamo il turnover per cui potrai assumere personale. Cioè, un ascoltatore ci scrive: siamo una grande cosca mafiosa, no? lo usa brutalmente come esempio, come dire, cioè effettivamente io proprio questo aspetto non lo capisco. Se accogli i migranti potrai sbloccare il turnover e assumere più personale. Allora, qual è in comune? Il problema? Che si capisce anche dalle parole del sindaco che abbiamo. Il problema è che, se noi andiamo a vedere, noi non stiamo parlando della percentuale di immigrati sul totale della popolazione, stiamo parlando della distribuzione dei rifugiati, capisci, sì, che provengono. Allora, se andiamo a vedere, 193. Il governo ti risponderebbe così: caro Milan, io c'ho un problema, c'ho due regioni in cui si concentrano il più del flusso degli immigrati recenti, cioè dei rifugiati che non sono ancora integrati, non lavorano, eccetera eccetera, perché sono per il 13% in Lombardia, per l'11% in Sicilia. Per il resto, se vado a vedere il resto delle regioni, con le prefetture e i comuni non siamo riusciti a avere una diffusività media, nel senso che per esempio in Liguria sono solo il 3% del totale, ma in tante regioni è così, in Calabria è il 4%. Allora il governo dice: signori, così non andiamo da nessuna parte. Equilibrio. Allora, equilibrio, come posso superare i problemi del sindaco, che in questo caso ci spiega: io c'ho i miei cittadini a economia depressa, non ho le risorse per dare loro le politiche di assistenza a loro, come mi giustifico di fronte agli italiani a cui non ho le risorse per dare sostegno ai loro redditi, però io intanto mi occupo degli immigrati, vado in difficoltà politica, come faccio a spiegarglielo? È un problema politico, non è istituzionale, non è un problema. Certo. E lo Stato in questo dice: sai che c'è il sindaco, su, dai, io ti faccio assumere, dai, ti faccio assumere. Appunto, allora, è questa la però cosa. Però è una roba d'anime morte di Gogol, perché è la resa di una logica, cioè non dai una risposta al sindaco che è in difficoltà con i suoi cittadini. Io l'ho detto come provocazione: il sindaco potrà assumere così, no? Vabbè, capito, è chiaro che è una provocazione. Che ne pensa di questo approccio, sindaco? Ma io concordo pienamente, mi è piaciuta molto la citazione proprio delle anime morte, perché siamo a questi livelli, e la rabbia che mi fa che sono da 25 anni che abbiamo un'emergenza e continuiamo a procrastinare una decisione e un'assunzione di responsabilità, perché, torno a ripetere, non possiamo poi marchiare chi inizia ad avere dei dubbi come una persona razzista, perché poi uno si sente anche dire queste cose qua semplicemente perché cerca di trovare una soluzione più sensata al problema che metta un po' in equilibrio le varie esigenze, cioè da una parte un cittadino un po' stanco, un po' veramente frustrato da uno Stato che non lo accoglie più, perché neanche più lo Stato è accogliente per il cittadino italiano, e quindi è ovvio che poi se la prenda con l'anello più debole della catena, che è il migrante. E questa proposta sulla ridistribuzione dell'accoglienza di Alfano, per esempio, poi ci fa veramente anche noi sindaci a iniziare a usare pallottoliere, cioè noi abbiamo già fatto il calcolo che 3 migranti ogni 1000 abitanti, noi siamo circa 60.000 abitanti, ne dobbiamo prendere 180, ne abbiamo già 184 a Savona, ma non è neanche quello il modo per risolvere un problema. Non è che ne prendete 4 che sono in più e dite: scusate, andate dall'altra parte. Infatti, ma no. È una follia veramente, anche questo fatto che non ci sia la possibilità di comunicare, di gestire tutti insieme, ma che dobbiamo comunque accogliere decisioni, esatto, come nel caso di Savona, calate dall'alto, avere non è con un'equazione che si risolve la mancanza di un modello. Esattamente. Allora, io c'è Andrea da Pistoia, ce la facciamo. Andrea da Pistoia, se è un po' breve, sì, che dobbiamo andare al giornale radio, poi continuiamo fino alle 9:30. Andrea. Ma infatti questa è la soluzione di Stato al problema che dicevate. Cioè? La nuova manovalanza, i nuovi italiani saranno questi, i migranti vengono spediti perlomeno qui in Toscana, nell'Appennino Tosco Emiliano, in zone remotissime, a ripopolare paesi sperdutissimi, e questi saranno la nuova manovalanza, i nuovi italiani che si sposeranno, rimarranno, ristruttureranno case, strade, e questa è la soluzione di Stato a ciò che dicevate, i migranti saranno la famosa risorsa di nuovi lavori a stipendi più bassi. Se guardate velocemente sui camion, i camionisti sono tutti di colore, che sono a est europei, i famosi lavori che non vogliono fare più gli italiani, questi saranno la risorsa. Ma questa è un'importazione di Stato. A proposito di Gogol, c'è cioè una meravigliosa novella su un programma che la burocrazia azzurrista lancia per ripopolare aree su cui i servi della gleba stanno diminuendo, e allora li si manda per ripopolare. Mi ha fatto venire in mente proprio le anime morte. Esattamente. Allora noi ci dobbiamo fermare, ringraziando Ilaria Caprioglio, neosindaco a Savona, e Enrico Di Pasquale, ricercatore della Fondazione Leone Moressa. Seguitela anche su internet, perché ha sempre dei dati molto buon lavoro entrambi, efficaci, molto giusti e precisi sulla questione immigrati. Ci dobbiamo fermare per il giornale radio, ma Oscar, poi parliamo di turismo, numero chiuso. No, io adesso corro su Facebook all'Agenzia delle Entrate, non me la posso perdere. Dai, dopo ci racconti alle 9, dopo le 9, che cosa hai trovato sulla pagina Facebook dell'Agenzia delle Entrate, tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il debutto del canone RAI nella bolletta elettrica sta avanzando non senza difficoltà. Come sappiamo, la scelta di inserire una delle tasse più evase dagli italiani nella bolletta dell'utenza elettrica ha come primo obiettivo proprio quello di rendere meno facile la vita a chi non paga il canone. Per dare un'idea, nel 2015 su 23 milioni di famiglie solo 16 milioni hanno pagato la tassa, e per contro nelle scorse settimane l'agenzia delle entrate ha ricevuto solo 817.000 richieste di esenzione da parte di soggetti che non hanno la TV oppure sono intestatari di più utenze elettriche. Comunque in questi giorni molte famiglie stanno ricevendo la bolletta del mese di luglio, quella con la quale si paga la prima tranche del canone, sono 70 euro, ai quali se ne aggiungeranno altri 30 per arrivare al nuovo importo complessivo di 100 euro, che è più basso rispetto allo scorso anno. Il messaggio è chiaro: se tutti pagano si paga meno. Il punto è che non sempre è chiara l'indicazione del canone nella bolletta, almeno non lo è per tutte le società elettriche. In molti casi, per capire a che titolo sono chiesti questi 70 euro, bisogna arrivare alla quarta pagina della bolletta, e la dicitura canone di abbonamento alla TV compare solo in una parte marginale della bolletta stessa. C'è poca chiarezza, quindi c'è anche poca trasparenza, il che rischia di mettere in difficoltà gli utenti. Una leggerezza che va corretta rapidamente, già con l'invio delle prossime bollette che inglobano il canone RAI. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, sono le 9.05 minuti, come sapete fino al 29 luglio andiamo in diretta fino alle 9.30. Siamo la vera alternativa a quelli che perdono la testa dietro Pokémon Go. Ah mamma, no, i Pokémon Go. Ma scusate, attento, c'è un Pokémon sulla spalla. Sulla spalla, sì, sì, è il gran classico. E che... l'agenzia delle entrate, quello che ho sulla spalla. No, no, perché tu devi sapere che... Quella è il collo. No, guarda, quella è il collo, perché ieri naturalmente è iniziata la via crucis della redazione annuale di Unico IRPEF per me, come tanti altri che ci ascoltano. Siamo solidali tra noi stessi, come ovvio, perché almeno questo. Però nel frattempo l'agenzia delle entrate, con la sua pagina Facebook nuova, finalmente entra nel mondo dei social, come sempre non proprio up to date, ci arriva con qualche decennio di ritardo. Vediamo se davvero via Twitter, YouTube eccetera, e soprattutto con Messenger se davvero dessero risposte ai contribuenti, beh, sarebbe un balzo clamoroso rispetto a oggi, perché tieni conto oggi chiunque abbia esperienza dei numeri verdi, ecco, non era esattamente... Ma una volta hai chiamato il numero verde in diretta qui a Radio 24, non è andata malissimo, ti ricordi che era stato... È verissimo, perché erano le 8:30, era il primo giorno, hanno risposto con gentilezza e competenza e precisione. Esatto. Era il giorno iniziale, adesso, però non vorrei dire, forse negli altri se giorni. Vuoi facciamo una prova ogni mese. No, facciamo questo no, perché io non voglio stato parlato bravo. Dell'arte del numero verde. L'arte la riserverei a altre espressioni dell'animo umano, per così dire. Comunque, guarda che ci chiamano un po' di persone. Michele ci chiama da Verona sui temi che abbiamo affrontato, diversi, dalla Turchia agli immigrati. Michele, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno a voi. Che dice? Ma innanzitutto complimenti per la trasmissione, sì. Vabbè, questo è diritto. E ho ascoltato un pochino a spezzoni perché purtroppo anche ho qualcosina da fare, fortunatamente ancora. E per quanto riguarda Erdogan sono d'accordo con l'altro ascoltatore che ha detto che probabilmente è un ricatto il fatto dei migranti per poterli tenere e farsi dare questi soldi qua e fare questo controgolpe. Però io ho anche un'altra idea e vorrei chiedervi, secondo voi potrebbe essere invece che questa autorizzazione in pratica viene data da tutti gli stati europei e americani a Erdogan di fare questo controgolpe non sia altro che una macchinazione degli americani, attenzione alla domanda, perché sapete benissimo che l'America c'ha sul gozzo, Obamistan c'ha sul gozzo il discorso Siria, non potendo andare gli americani direttamente in Siria, sì. Lascerebbero fare all'esercito turco. Se ne è parlato, se ne è scritto, dietro a questo c'è Washington, la Turchia lo ha accusato anche, lo ha detto apertamente, no? Dietro l'America. Perché ospitano Fethullah Gulen. Ma sì, ma perché oggi anche Repubblica racconta di alcuni aerei che avrebbero appoggiato gli F-16 dei militari turchi. La cisterna, forse Repubblica, bastava leggere un secondo meglio i tracciati internazionali, quella cisterna era turca ed era golpista, non era americana, lo dico con ragionevole certezza perché io sono un appassionato di questioni militari, quindi insomma ci sono siti che ricostruiscono praticamente tutti i movimenti aerei che ci sono state. Mi colpisce che oggi per esempio Repubblica traduca un articolo dal sito Aviationist che conosciamo tutti, lo traduca testualmente senza citarlo. Anche i grandi giornali fanno errori dell'ABC del giornalismo, se permette. E comunque no, di attività americana non c'è proprio traccia, per così dire. Naturalmente attività concreta, secondo me, oltretutto, e questo è l'ennesimo smacco per gli Stati Uniti, altro che gli Stati Uniti che vogliono. La politica di Obama in tutto lo scacchiere è stata una successione, ohimè, di errori e mal calcolati effetti. Voglio dire, se pensate all'entusiasmo verso la primavera araba e poi in che cosa si è tradotto in Egitto tutto questo e così via. Comunque Luca invece ci chiama da Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo porre una questione che nessuno ne parla, almeno quando ascolto la radio non ne sento mai parlare. I migranti quando arrivano, ok, non ne parla nessuno che potrebbero esserci anche dei criminali tra di loro, no? Che scappano dai loro paesi. Li mandiamo o diamo per scontato che sono tutte delle brave persone? No, ci sono delle commissioni che dovrebbero dare una risposta, si spera, il più velocemente possibile. Purtroppo a volte ci mettono anche più di un anno, per chi fa una domanda dicendo chiedo di essere un rifugiato politico, e le commissioni dovrebbero stabilire se ne hanno diritto oppure no. Però prego Luca. No, nel frattempo però li mandano a destra e a manca. Li mandano nei comuni, non si sa cosa fanno, non si sa chi sono. O i criminali sono solo in Italia e in Europa e tutti gli altri sono onesti. Quindi potremmo mandare nei comuni anche dei criminali, dei delinquenti, dei stupratori. Non so, ci saranno anche potrebbe loro succedere. Dei criminali o no? Ci saranno, sì, sì, ci saranno. Allora, a noi qua va bene controllare che siamo criminali, se siamo dei ladri, eccetera, eccetera. Per loro no. Loro lo statuto di migrante va bene. No, va bene. Quindi, se io ripeto, c'è una commissione che decide, va bene. Non è, ma va bene. Chi è che decide? Che una sono commissione, migliaia che ci sono commissioni in ogni provincia che esaminano le domande fatte da queste persone. Cioè, nella commissione c'è il prefetto o un rappresentante del prefetto, un rappresentante delle associazioni, ci sono un rappresentante delle forze dell'ordine, esaminano questa domanda che viene o accolta o respinta. E per accoglierla o respingerla, per rispondere alla sua preoccupazione Luca, il controllo sui terminali dell'Interpol su eventuali precedenti, segnalazioni, reati, fedine penale o condanne e ovviamente parte di questa procedura. Dopodiché l'aspetto del fatto che queste procedure siano interminabili, questo ci vorrebbero forse molte più commissioni, questo è un problema. Quindi, nel frattempo questa alla sua domanda, ma i potenziali ladri e delinquenti ci sono, entrano? Risposta sì. Ci sono e magari si scoprono dopo un anno e questo sicuramente Luca, lei ha ragione. Se ci fosse un sistema rapido di accertamento, anche perché durante questo periodo non possono lavorare per legge, quindi devono fare appunto bighellonare nei comuni. È tutto un sistema che non va, dove la colpa non è da una parte o tutta dall'altra. Caro Oscar, vogliamo parlare di turismo. Tu in ferie non ci vai. Dove vai in ferie? In ferie i piccoli vanno 2 settimane a Santa Margherita. I piccoli, capito? Cioè, perché tu no. Io i gatti, c'ho qua che ci convenza a Milano anche, e la famiglia è ampia. Capito, Lulu, Lola, Lulu, Lola, Ragù, Artù, che bisogna gestirli. A non fare le ferie. No, mi costringono, no, però insomma siamo parte della famiglia anche loro e quindi comunque come puoi immaginare il nome della località non è del tutto indifferente al nome della comandante generale del nucleo, cioè mia moglie. Esatto, Santa Margherita. Perché lei si chiama incidentalmente Margherita. Avessero chiamato un pianeta Margherita, tanti problemi si risolverebbero. Però vabbè, non c'è il pianeta. E quindi... tanto non siamo in diretta. Ma no, ma perché il turismo spaziale, che cosa hai capito? Distanze incolmabili. Pensavo che volessimo andare, te stesso sul pianeta. No. Margherita. Pensa, ieri il mio figlio maggiore, che ha solo 1 anno e mezzo, e ha impugnato un cucchiaio, e come se fosse la cosa che sa fare in tutta la vita, senza parole, ci sono le immagini, ha iniziato a mangiare col cucchiaio, come dire, ma voi perché mi imboccate? Io so farlo da solo. Piccola esperienza cognitiva che dice, siete grandi ma non avete capito nulla. Niente. Comunque, parliamo di turismo e l'annosa questione, perché ci sono comuni, il primo è il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che dice ci vorrebbero, basta, numero chiuso per i turisti. Brugnaro lo dice poi oltretutto fin da quando è stato eletto. Troppi turisti. Allora, noi qua abbiamo il presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Vittorio Bonaccini. Buongiorno presidente, grazie. Buongiorno. Abbiamo anche due sindaci, o meglio un sindaco, Rio Maggiore, Cinque Terre, straordinaria, Fabrizia Pecugna. Buongiorno sindaco. Buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Il sindaco con quel cognome, l'Agenzia delle Entrate la ascolterà con grande attenzione. Esatto. Il vice sindaco invece di Capri, altra località, isola magnifica, Roberto Bozzaotre, buongiorno. Buongiorno a tutti. A cui chiederemo della secessione interna tra Capri e Anacapri, perché c'è anche quello oramai. Esatto. Comunque, gli albergatori, Bonaccini, siete dalla parte di Brugnaro oppure no? Questo è un duro colpo, il numero chiuso anche agli introiti per gli albergatori. Ma guardi, non sarebbe assolutamente un duro colpo, anche perché in realtà... Noi sappiamo perfettamente che il turista che con la valigetta ti entra all'improvviso in albergo è sparito ormai da tempo, no? Esiste già da tempo, da 25-30 anni ormai, la gente si fa le proprie sane prenotazioni via internet, quindi il problema non si pone evidentemente. Sì. Se ci fosse un numero limitato potrebbe... Ma il numero limitato non potrebbe mai comunque essere... evidentemente superiore al numero di posti letto regolarmente omologati. Quindi le dirò che paradossalmente potrebbe essere anche un aiuto per gli albergatori, ma noi siamo sostanzialmente contrari per un problema di principio. Veda, per quanto riguarda Venezia, realtà che conosciamo tutti molto bene, per fatto 100 il valore del prodotto del turismo, bisogna rammentare che il 70% di questo 100 viene prodotto dal 30% del turismo stanziale pernottante. Viceversa, il 70% del turismo non stanziale, quindi pendolare, produce solo esclusivamente il 30%. Sì. Quindi l'idea di chiudere paradossalmente a noi potrebbe anche, in termini ipotetici, andar bene. Il problema di base è che cozza completamente contro un concetto di libertà, di fruibilità dell'arte, dello spazio e della cultura di cui Venezia effettivamente ne ha. Questo è più evidente. Insomma, quindi non un no, un no to cure, un no ragionato. Ovviamente, ma poi guardi, tenga presente, per quanto riguarda Venezia, è un problema ormai annoso, è un problema ormai che si trascina da decenni, già nel 1980 esistevano degli studi che davano con un incremento esponenziale del 2% costante anno il fenomeno del turismo. Non è stato fatto niente. Ma perché non è stato fatto niente? Per una libera scelta, evidentemente. Guardi, abbiamo appena raccontato che per anni non si è fatto niente sul tema migranti. Cioè, in questo paese sembra la sensazione che a Venezia è evidente che c'è proprio un limite fisico, cioè è poco da fare. Sì, però immaginiamoci il turista che arriva e dice: no, è scattato il numero di visitatori per questa giornata. Il problema, infatti, è la programmazione. E c'è anche un altro problema, faccio notare, perché è ovvio che le strutture ricettive, gli alberghi e così via, come è giusto, facciano esattamente, producono l'argomento che abbiamo appena ascoltato, cioè il turismo mordi e fuggi è quello che poi lascia anche meno, oltre a creare più problemi dal punto di vista della tenuta della struttura urbana di trasporto. Detto questo, naturalmente bisogna anche riconoscere il diritto alla fascia più bassa di reddito del turismo, cioè quello mordi e fuggi, che dice: sì, ma non è che per questo mi dovete dare il diritto di farmi vedere Venezia. Quindi è un problema complicato, proprio per questo ci vorrebbero dei modelli integrati di gestione del fenomeno. Secondo me sono quelli soprattutto che il sindaco contrasta, perché quello che arriva sporca, cioè diciamo brutalmente sporca, nel senso che produce anche rifiuti, no? E il turista poco arriva, lascia poco denaro, non dorme lì e poi se ne va via, e la tassa sui rifiuti la paga il comune, il residente, le imprese che sono lì. Questo è un problema forse che alle Cinque Terre e anche a Capri, non so, alle Cinque Terre forse è anche maggiore, no? Il sindaco Fabrizio Pecunia, lì risolve tutto la pecunia del sindaco. magari. Sindaco, sì, è un dice? Problema molto sentito, anche perché le Cinque Terre sono borghi molto piccoli, quindi noi abbiamo di fatto proprio un problema di spazio, in uno spazio ristretto tante persone contemporaneamente non ci possono stare, è proprio come dire una legge oggettiva che va proprio al di là di ogni possibile intervento da parte nostra. Quindi io sul numero chiuso mi sento di dire che non è possibile, non è fattibile, anche perché noi le Cinque Terre le viviamo, cioè noi viviamo, siamo borghi vivi, quindi per imporre un numero chiuso significherebbe trasformare le Cinque Terre, Rio Maggiore, Manarola, io parlo in particolare dei miei comuni, in riserve, e questo non... Cioè vi escluderebbe un po' troppo, però lei stessa dice che è un problema se troppe persone ci sono. Problema, anche perché noi oggi viviamo la problematica del dissesto idrogeologico. Io su Rio Maggiore e Manarola ho due problemi molto grandi, è che quello che le vie di comunicazione, la Via dell'Amore che collega Rio Maggiore a Manarola e il Sentiero Azzurro tra Manarola e Corniglia, attualmente sono chiusi. Quindi i turisti che arrivano in numero molto elevato in questi borghi rimangono sostanzialmente bloccati e si possono muovere per raggiungere le altre località solo tramite il treno oppure l'autobus. Ma per esempio, perché è contro numero chiuso, lei dovrebbe volerlo. Io sono a favore di una pianificazione, di un'analisi dei flussi turistici, di una gestione che potrebbe essere, così ascoltata superficialmente, potrebbe essere una sovrapposizione al numero chiuso, quindi lei dice perché è contraria. Perché facendo una corretta analisi, una corretta gestione dei flussi, quindi soprattutto io parlo dei gruppi organizzati, sarebbe possibile per le istituzioni, soprattutto anche per il parco, quindi che ragiona in un'ottica di Cinque Terre, quindi non soltanto per i singoli sindaci, gestire e suddividere il flusso turistico nello spazio e nel tempo, quindi poter distribuire, quindi non fare un numero chiuso, ma comunque distribuire il flusso turistico in modo da rendere è bellissimo, però distribuire, cioè c'è la libertà di movimento, cioè, però del resto se vuoi entrare agli uffici ti devi prenotare per il biglietto, il criterio è un po' lo stesso, questo qua è una sorta di prenotazione, poi ovviamente è necessario organizzare in modo corretto, quindi senza approssimazione, perché sì, altrimenti poi appunto diventa... No, no, ma è chiaro, però qui è capire se si può entrare in un comune appunto con questo tipo di programmazione. Vediamo se su un'isola è così. Bozza Otre, vice sindaco di Capri, detto che non... Buongiorno. So, con Anna Capri non avete ancora lanciato le bombe atomiche, no? No, tutto a posto. No, no, anzi, no. abbiamo trovato un motivo di tregua. Armistizio. No, tregua, non ha detto pace, tregua. Armistizio. Una sorta di armistizio, sì. Sì. A Capri, no, che succede? Vorreste... No, noi abbiamo il problema del limite fisico, che diceva il sindaco prima, è un problema che abbiamo chiaramente anche noi, perché quotidianamente, insomma, in pochissime ore, diciamo, c'è un flusso turistico decisamente elevato, e quindi questo porta un surriscaldamento dei servizi evidente. Però nello stesso tempo noi, diciamo, avendo anche un sistema e basandoci su un sistema economico che appunto si basa sia su un turismo stanziale che su un turismo, diciamo, invece quotidiano, pendolare, riteniamo, e anche per una questione anche di principio, sì, riteniamo che il numero chiuso non sia per noi la soluzione, diciamo, auspicata. Noi infatti abbiamo più volte fatto un tipo di proposta diversa basata appunto sulla programmazione. Noi infatti riteniamo che in alcune fasce orarie ci siano troppi accosti dalla terraferma in maniera poco distaccata o addirittura contemporanea e contestuale, quindi siamo più per una razionalizzazione degli arrivi. Sì, ma ci sono, cioè, ci sono le, come ci sono le ore di punta nel traffico, Oscar? Io non capisco. Sì. Cioè, saranno venerdì alle 18, immagino tutti vogliono partire per Capri e tutti vogliono ritornare la domenica alle 18. Il problema è quotidiano, nel senso che dall'inizio della stagione turistica fino alla fine, diciamo che dalle 9:30 alle 12:30 di ogni mattina si verifica una situazione per cui gli aliscafi in arrivo sono circa 30 in 3 ore, Oscar, quindi diciamo le strutture... E quindi noi abbiamo sempre proposto di distaccare, di distanziare questi arrivi di 20 minuti, questo ci darebbe la possibilità ai servizi pubblici a terra di smaltire, tra virgolette, le persone e i gruppi in arrivi, farli raggiungere Capri piuttosto che Anna Capri e decongestionare l'area portuale in maniera ordinata, che è quello che adesso non succede. Qui noi ne facciamo soprattutto... No, come ma è chiaro, è chiarissimo, vice sindaco. Cioè, Oscar, che volevi dire? No, io dicevo che per esperienza sono vecchio, no? Allora, io andavo a Capri quando, stiamo parlando di metà degli anni 60, i flussi dell'epoca, nonché i traghetti dell'epoca, che sembrano quasi preistorici rispetto a queste enormi navi che ci sono oggi, si è tutto moltiplicato per un fattore N. Io devo correggere un secondo, perché l'intervento che diceva noi proponiamo da anni la diminuzione delle corse, beh, non è proprio così, a dire la verità, non c'è un accordo nemmeno tra i diversi comuni dell'isola su questo, perché nella realtà Capri come Ischia hanno spinto troppo sulla linea del turismo mordi e fuggi, cioè gli orari delle compagnie e chi gestisce i porti, beh, è tutto avvenuto con la vostra corresponsabilità, ecco, questo vorrei che fosse chiaro, nel senso che il turismo, ed è tutto coerente, il consumo del suolo in queste isole è stato spaventoso negli ultimi decenni, il fenomeno dell'abusivismo in queste isole è stato spaventoso, ne abbiamo, come sai Alessandro, più volte parlato, anche di Ischia e così via, tutto è coerente in una logica di sfruttamento economico, perdonatemi, io sono per il mercato, ma quando poi si inizia a distruggere le risorse che mette in circolazione il mercato, diventa una funzione distruttiva. Ecco, secondo me lì è stata varcata la soglia. Tra l'altro ci chiama Davide da Monza, vediamo che ha da dirci. Davide, buongiorno. Buongiorno Milan, buongiorno Giannino, vi ho ascoltato volentieri. Comunque niente, dai, siamo stufi. Togliete questi sindaci, togliete queste mala gestione, fate venire gli stranieri, una nuova proposta. Ma perché? I germanici verrebbero volontari a gratis a sistemare tutto e quelli che sono nei comuni se ne devono andare. No, a perché per un strade. Secondo noi pensavamo che lei volesse dire gli immigrati per proteste, invece lei dice no, i tedeschi, no, che no, sanno germanici, i germanici. Beh, io non sarei così contrario, ma come perché noto. Cosa l'ha fatta arrabbiare, Davide? No, perché ogni giorno fanno chiacchiere, ogni giorno fanno poi dopo si Poi dopo le loro chiacchiere finiscono con treni che si scontrano. Ma no, dai, cosa c'entra? Sì, ma no, dai. Ma diciamoci la verità, se uno va a guardare, in Germania non c'è niente. È stata bombardata per anni, è stata demolita e loro hanno un pezzettino, lo tengono bene. Loro hanno un quadrato, se lo curano. C'è del giusto in quel che dice. Noi abbiamo una cultura all'aperto, abbiamo un museo all'aperto e questi lo demoliscono. Ma allora facciamo così. Mandateli via, fateli via. Loro vengono gratis. Tutti. Io penso che loro vengano qua gratis perché loro ci tengono più di noi al nostro patrimonio. Va bene. Dove va bene. Vai in vacanza la Merkel? Infatti, esatto. Beh, viene spesso anche in Italia, a Ischia, poi va anche in Trentino. Va bene, Davide, grazie. Andrei a Milano da Luigi. Buongiorno, Luigi. Buongiorno a tutti, ciao Oscar. Ciao. Io avevo una proposta, credo, abbastanza seria, poi vediamo. Il problema è molto semplice. Io sono veneziano di nascita, conosco perfettamente che cos'è Venezia e di conseguenza so che i turisti sporcano e lasciano veramente di tutto. Basta andare nei giardini, basta andare. Cioè, è un immondezzaio a cielo aperto. Basterebbe semplicemente istituire. Io sono contrarissimo alle tasse, per carità, però per chi vuole vedere Venezia deve pagare non solo il biglietto del vaporetto o che cosa, deve pagare anche la tassa di sporcizia, cioè bisogna prelevarli dal portafoglio un quid, per cui i costi che non devono rimanere ai veneziani, ma devono gravare su chi sporca. I veneziani non sporcano, ma quelli che vengono dentro, vuoi vedere Palazzo Ducale? Benissimo. La tassa sui rifiuti, già c'è la tassa, non so, vediamo, Bonaccini, ripeto, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, la tassa anche per chi rifiuti, già c'è la tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno. Però se uno arriva, sta un giorno, la tassa sui rifiuti, effettivamente. Scusate, no, io vorrei veramente cercare di riportare un attimino di ordine nella situazione, perché stiamo sentendo veramente un poco di tutto di più. Ecco, ci ho premesso una cosa che non ho ancora avuto la possibilità evidentemente di esprimere a chiare lettere, è il fatto che a tutt'oggi un concetto di identificazione e collocazione degli arrivi e delle partenze dei flussi turistici per quanto riguarda la gronda lagunare Venezia stessa non è stata fatta, ma volutamente o per incapacità. Lascio così il beneficio del dubbio. Ma lei lo sa che la risposta è volutamente. Dai. Io posso essere perfettamente d'accordo con lei, però come presidente di categoria giusto, deve lasciare la porta aperta. Vabbè, era solo per far capire agli ascoltatori. Prego. No, io non lascio porte aperte, evito di chiuderne, sono due cose diverse, no? Esatto. Anche perché evidentemente sul territorio devo vivere, lavorare e operare, no? Questo è certo. Ciò detto, è chiaro ed è inevitabile che nel momento in cui tu non prendi in mano una situazione né identifichi, ribadisco, l'identificazione dei flussi turistici. Sì. A Venezia non è stata fatta. Allora, se noi cominciamo a immaginare che tutti i pernottanti e tutti coloro che lavorano a Venezia centro storico possono accedere serenamente senza problemi a al terminal di Piazzale Roma o della ferrovia, noi possiamo di converso supporre che tutti coloro che non sono stanziali e sono pendolari possono fermarsi direttamente in terminal salvuopo creati, stabiliti direttamente sulla gronda lagunare e arrivare nei disparati punti della città di Venezia, perché è impensabile che tutti vogliono arrivare a Piazzale Roma e tutti sulla linea numero 2 vogliono arrivare a San Marco. Sì. Non si può. Non si può. Allora, è evidente, no? Allora, atteso che, ribadisco, l'Associazione Veneziana Albergatori è profondamente contraria al numero chiuso, per malgrado, ribadisco, ci possa essere, ci potrebbe addirittura anche far gioco, però proprio in uno spirito. Sì, sì, però non ci ripeto ogni volta, esatto, diciamo, le precauzioni per tenere unita l'associazione, vada poi appunto. Allora, il vero problema continua a essere questo, la non identificazione e gestione dei flussi. Oh, perfetto. No, si fermi qui, Presidente. Anche perché dobbiamo dire due cose in chiusura, caro Oscar. Allora, poco fa Gentiloni ha parlato, ha detto con la pena di morte stop al negoziato con la Turchia, insomma, la questione Europa. Poi abbiamo anche sottovalutato quello che è successo ieri in Germania. 17enne afghano, al casa del quale è stata trovata una bandiera dell'ISIS. Sì. Dicono, sì, però, aggredito. Attenzione, che adesso ogni mattarello che poi diventa un fenomeno. No, il problema è, per fortuna, che ieri si parlava nei primi minuti, ieri in tarda serata, di decine e decine di feriti, molti gravi. Per fortuna il bilancio è stato più limitato. Sì, a Würzburg sono 4 feriti gravi e uno lieve, 4 in gravissime condizioni. Tra l'altro, un'intera famiglia di Hong Kong. E a casa di questo 17enne, dicono, la Germania è stata trovata bandiera dell'ISIS e viene definito già quello che dice un lupo solitario. Un lupo solitario. Vabbè. Comunque, qui stiamo parlando, questa è una cosa che nei giornali tedeschi esplode, perché ovviamente questo riguarda esattamente la posizione Merkel, che ha aperto la parola. Afghano, e Siria, Afghanistan e Siria sono i due paesi cui c'è il diritto all'asilo illimitato in Germania, quindi stiamo parlando del core della politica della Merkel. Comunque, consentitemi di dire una cosa sul turismo. Tutti i nostri ospiti, sul turismo. Se volete andare al Palazzo Imperiale a Pechino e prenotate mesi e mesi prima, pagate per il Palazzo Imperiale, il tour del Palazzo, 50 euro. Se pagate lì per lì, ne pagate 152. Sì. Un'offerta pianificata sulle città che hanno problemi e strutture che hanno problemi di sostegno urbanistico, di resistenza, con la pianificazione graduata nel tempo, guardate, nel resto del mondo si fa così. Si fa. In ogni caso, buone vacanze. Che è il numero chiuso o aperto? Per chi le fa. Allora, ci fermiamo qui con Peter Bescapè in regia e, come sempre, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione. E auguri a Veronica Lario. Auguri, Veronica Lario. È il compleanno di Veronica Lario. E il Milan resta al marito. Sì, i cinesi smentiscono questa del mio cupio di Solvi, ricordati. Questa è la mia teoria sul Milan da parte di Berlusconi. Quanto sei critico, Veronica. Cupio di Solvi vuole che il Milan ritorni dove l'ha preso, più o meno dal nulla, Giussi Farina. Va bene. Va bene. Chiudiamo qua, va. Chiudiamo. Ciao.